Continua la lunga maratona dell'MFLA, sono le tre, come ci dicevamo il tempo vola, e a che segno siamo arrivate? Ma a questo punto possiamo partire da capo, cioè dall'Ariete, che appunto diciamo che finalmente qualcosa di serio si muove nel vostro cielo. Venere dal 5 marzo non sarà più così fredda e avara, ma fantasiosa e libertaria e possibilista. La via diventa più libera non solo per quanto riguarda gli affetti messi a dura prova da mesi, ma soprattutto nel lavoro e nella vita pratica. Ora è tempo di farsi nuovamente avanti, troverete consensi e appoggi. Da sabato primo al pomeriggio di domenica 2, sogni ad occhi aperti. Dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4, luna nel segno ed emotività. Dalla cena di martedì 4 alla notte di giovedì 6, tranquillità e praticità. Dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, leggerezza e divertimento. Dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10, giornate paranoiche, suscettibilità. Quindi questo era l'Ariete. She told me not to step on the cracks. I told her not to fuss and relax. Ed ecco, passiamo di segno in segno e arriviamo. Saltiamo un po', facciamo il leone, perché il leone comunque è sempre un segno di un certo di una livello, certa importanza. Una certa importanza. Guarda, io sono ascendente leone, quindi per me va benissimo. Dell'oroscopo, anch'io ho degli affetti importanti che sono leone, quindi ho pensato che fosse importante leggerlo. Ti aiuta nella lettura, che ti sento empaticamente coinvolta. Empaticamente coinvolta. È bene agire sin da subito se avete questioni importanti o scadenze. Dal 5 anche Venere si mette di traverso e la vostra strada diventa una gincana. I pianeti mettono a dura prova la vostra pazienza. Occhio alle provocazioni, non prestate il fianco. In amore c'è gelosia, visioni diverse, distorte. Calma. Scusate il punto interrogativo spontaneo. Ma in una situazione di gelosia con visioni diverse e distorte, complimenti a voi leone che mettete calma. Bravissimo. Da sabato primo al pomeriggio di domenica 2, dolcezze. Ah, loro le hanno anticipate le dolcezze. E quindi per questa settimana è andata. Dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4, esuberanza, avranno fatto notti folli. Dalla cena di martedì 4 alla notte di giovedì 6, fissazioni ed esagerazioni. Ma dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, chiacchiere di quartiere. Bello però questo, dai, due giornate belle in chiacchiere di quartiere. Stai sul quartiere. Stai sul pezzo. Sul territorio. Dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10, affettuosi e protettivi. Bello. Bello. Bello, finisce così. Bene. Forse è meglio che smetto. Sono il bacio col rossetto, il rap è il mio colletto. Questo mondo non è mio, appartiene all'uomo. Indovina chi l'ha detto, un altro uomo. Nulla di nuovo, sotto pressione. Occhi puntati addosso, colpi nel caricatore. Sono troppo aggressiva, sono solo questa. Mi vorrebbero più figa, sono solo questa. Dovrei fare la signorina, sono solo questa. Il prossimo che arriva, giuro, gli stacco la testa. Questa è la mia vita, mica un film trendy. De Laurentiis che intrattiene gli adolescenti. Parlano di me, colpi in canna, rascio roulette. Sparami ma non sbagliare, mira che poi tocca a me. Sparami, sparami adesso. Spara tutto quello che hai ora. E allora continuiamo con l'oroscopo e arriviamo al segno del Gemelli. Cosa succede al Gemelli? Comincia male marzo per via della luna nuova in Pesci, ma la situazione è promettente. Mai perdere le speranze. Venere dal 5 diventa anch'essa positiva insieme a Mercurio e Marte. Mollate ciò che non vi garba per un motivo o per un altro e tenetevi il bello. Se per mano non avete nulla, state sereni che arriva. Sempre per la legge del mai perdere la speranza. Ai gemelli chiede di non perdere la speranza nonostante quello che le accada. Sereni che arriva. Ok. Poi dice: amore, sì, sì. E anche soldi e lavoro. Tutto sì. Mentre da sabato 1 al pomeriggio di domenica 2, confusi, difficili. Bia, ho una proposta da farti. Dimmi. Gli leggiamo solo il 7, dal 7 al 9. Vale. Allora, sono successe un sacco di cose fino al 7. Ragazzi, ragazzi, siete stati confusi, difficili, dinamici, intraprendenti, sereni, pratici. Ma dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, luna nel segno in primo quarto. Ansie da prestazione. Dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10, inquiete. Strappate i miei polmoni dalle mie costole. Dinamite sotto il trono del vostro re. Al mio 3 spara un, 2, 3. Mostri che mi cibano il cervello mentre dormo. La corte è un quindicenne che mi insegna come stare al mondo. Non sono link di Facebook, non devo piacervi. Meglio remita che una vita tra le serpi. Sparami adesso, spara tutto quello che hai ora. Sparami addosso, che dopo non mi fermi mai. Spara, sparami ma non sbagliare, che se tocca a me ti faccio male. E passiamo al cancro. Il mese comincia in modo promettente. La nuova luna in pesci porta novità stimolanti. Poi dal 5 Venere, dopo lunghi mesi, toglie la sua opposizione, lasciandovi di nuovo liberi di scegliere, anche se Marte continua a succhiarvi energie e voglia di fare. In amore meno conti e più baci. I single, parola tanto cara a Bia, in cerca di avventure. Perché l'ho detto questo? Non mettete parole in bocca che poi no, devo spiegare poi alla gente, mi domanda. No, non cerchiamo spiegazioni. Guardavamo soltanto il piacere delle parole. Vai. Piacciono le parole. Curate la salute, è ancora un punto delicato. Anche voi avete avuto delle aperture. Sta taglia oroscopo. Che però vi hanno portato isteria e alcuni scleri che siete riusciti ad affrontare con calma e serenità fino all'alba di venerdì 7. Alla mattina di domenica 9, in vena di chiacchiere. Quando sarete in vena di chiacchiere. Wow. C'è qualcuno che trasmetterà da questa radio che è cancro, sappiamo. Certo, la salutiamo, tanto sarà molto sveglia. Sarà sveglissima. Sveglissima come al solito, però noi la salutiamo da qua. In realtà speriamo che lei naturalmente già dorma, perché tra 3 ore deve stare qui a darci il cambio. E fortunatamente è in vena di chiacchiere, quindi potrà accompagnarvi durante il giorno. E poi dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10 la luna sarà nel segno e porterà emotività. Niente, andando avanti coi segni, siamo arrivati al segno della Vergine. Sì. Che si sa com'è, un po' così. Un segno un po' così. Comunque, volevo dire che, care Vergini, io vi devo dire che marzo comincia con la luna nuova in opposizione al vostro segno, portandovi un alone di pessimismo e di stati confusionari. Volevo accollà. Vabbè, è capitato. Accollate questa pratica. Ma il cielo, se sa il cielo, non si può, sì, mai dire. Si può mai dire. È carico di promesse che manterrà in un modo o in un altro. Il senso letterario di non si può mai dire. Si può mai dire. Grande espansione lavorativa, ma è l'amore ad avere la meglio. Cioè, uno ci prova a lavorare, però non c'è niente da fare. C'è qualcos'altro che ti porta altrove. C'è in opposizione qualcuno che si sta opponendo qua. C'è dibattito. C'è dibattito tra amore e lavoro. Ma gli accogli della vita, ma andando avanti con le povere vergini che si trovano in mezzo a questo dibattito, e per loro l'amore alla maglia sul lavoro e non si devono risparmiare, ecco, cioè questo poi è importante. Dai. Non risparmiatevi, basta. Sì, ecco, poi succedono un sacco di cose, se li puoi riassumere un attimo quelli dei giorni che sono passati, se puoi fare un attimo il riassuntino, te che c'hai il dono della sintesi. Pare che abbiano avuto un senso di smarrimento che si è trasformato in una voglia di azione dettata dall'impulsività, e infatti sono arrivate a raggiungere un benessere emotivo e delle soddisfazioni. Perfetto, mamma mia, sei perfetta. Comunque, che niente, non si può dire niente. Bravissima, bravissima. Però infatti io dico che invece, che io leggo, certo, a differenza il futuro, fra l'altro, leggo il futuro e dico alla Vergine, guardatemi bene negli occhi, dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, distrazione e complicazioni. Fa sta faccia, Marta, ma cos'è Vergine? Sta a magnà. Allora qua c'è gente che si è venuta a magnà, no, che ci ha portato del buonissimo cibo, grazie ragazzi, con delle salse condite con salse, e chiudiamo con la Vergine, perché intanto ci siamo distratte pure noi col cibo, nonché con il profumo di cibo, e diciamo solo che dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10 anche loro stanno teneroni, e quindi si rilega a quello di prima, capito? Ai paillette, a dolcezza e la tenerezza, le coccole, cioè ovviamente ci sarà un'orgia tra la domenica del pranzo tra e la domenica mattina. Cioè dal pranzo fino al lunedì 10 c'è sta una mega orgia di tutti questi segni che si incontrano, casino, raga. Buona domenica pomeriggio, si coccolano, un'orgia soft de coccole e dolcezze, bello però così. Sì, dai, cioè. Un'orgia o un sesso? No, cioè, qua si immettono dei concetti che non sono comprensibili alle 3:15 e 31 secondi. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. My voice, your body sending all my love. It's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that deep bones. A rock'em up as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. A dear rock'em up as a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. Rock him up and shall not fall it down. Cause he is the wisdom of a not fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have. So I said, this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. What you really did in the end. But what you ever gonna do? alle 13:56 secondi. Torniamo qua sempre con l'oroscopo di Astronza. E arriviamo al Capricorno. Il Capricorno. Che comunque è un segno un po' così, un po' contraddittorio. Non so se è l'ultimo, però perché non forse me lo ricordo. Ci manca soltanto lo Scorpione. Per me ci manca forse la Bilancia. Brava, la Bilancia. La Bilancia che poi dopo... allora non è l'ultimo. No, non è l'ultimo, però il Capricorno è sempre un segno un po' così, diciamolo. L'hai scelto, quindi ci sarà. Io sì, perché ci interroga un po' tutte. Perché il Capricorno è un segno che possiamo costruire insieme. Possiamo dire che ci sta sentendo adesso, cioè super applausi. Ma super comunque, applausi naturalmente. Cioè, super applausi perché il problema è che o insonne, perché cioè, io non glielo auguro a nessuno questa cosa. Magari ha semplicemente scelto di dormire con noi come sottofondo. Pure ci abbraccia nella notte. Sì. Bello, bello, molto belle. Molto bello, bello, molto bello. Ci piace. Io so che immagine. Comunque ci sono delle compagne che ci stanno ascoltando da vari punti di questa città, dalle, che ne so, dalle occupazioni. Ora faccio un po' una cosa che porta al mio mulino. Dalle occupazioni, dai picchetti, perché insomma è importante mantenere alta la nostra resistenza nei nostri luoghi occupati, che proteggiamo con i denti e con le unghie, e quindi ci sono donne che ci ascoltano dovunque. E niente, a parte ciò, io direi che il Capricorno, cosa succede? Il mese comincia bene, ma man mano che i giorni passano la situazione si complica. Venere dal 5 lascia il vostro segno dopo lunghi mesi di permanenza. La resa dei conti è terminata, è tempo di sentirsi meno responsabili degli altri e più responsabili di se stessi. Pensate alla vostra felicità. La salute è il punto debole del momento, riposatevi e riguardatevi. Calma e sangue freddo. Fai, ti adesso. Senti pronta alla sintesi? No, adesso vede, vede. Vediamo che cosa può essere successo per il nostro Capricorno. Pare che anche loro abbiano iniziato questa settimana così tanto sentimentali, e però dove c'è tanto sentimento arrivano arrembature e steccature. Niente, felicità, empatia, simpatia, estroversione. Ma no, sì. Hai letto pure te? L'ho letto pure io. Saremo... No, diciamo che questa cosa che dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, simpatia ed estroversione, per riprendere un po' le parole di Sam, dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10, pessimismo cosmico e malinconia. Cosmico, cosmico. Sì. Vabbè, raga, non è che è sempre, cioè sta cosa che pure che l'oroscopo dice sempre cose positive, a me pure non è che mi piace, cioè se capisce che te sta più a per culo, capito? Allora a sto punto diciamo le cose come stanno. No, ma allora l'oroscopo da stronza c'è pure questo, cioè che è crudo, nel senso non te lo manna a di, te lo dice proprio. Scusa ragazzi, io invece pensavo proprio stare lontani dal Capricorno domenica e lunedì. Ah certo, questo è un buon avvertimento. Tutti i Capricorni isolati. Ecco Marta c'ha fioca. No, però tutti isolati, no, sti Capricorni, no, voracci, no, cioè non gli diamo sta no, croce. No, non li avremmo isolati in quel senso. Certo, noi diamo sta croce da portare. L'avremmo capiti, nel senso che sappiamo che state così. Grazie, il pessimismo cosmico è con voi. Cioè, comunque io difendo sempre i Pischelli perché penso il che... Capricorno difendi. No, difendo sempre i Pischelli perché penso che mi va forminato in un secondo. Perché capisco le fatiche delle mamme, perché questo sì, però io... Cioè, loro so, cioè sono la nostra energia, il futuro, il presente, e poi possono sbagliare. E allora, per questa prendo posizione sempre da persona che chiaramente non ha figli, però c'ho sto posizionamento un po' così e niente. Lo porto avanti. Lotto.

Anche la musica, anch'io anche un po' di musica. Al cuore fa bene far le scale, al cuore fa bene far le scale, al cuore, ma se non fa le scale, al cuore fa bene far l'amore, il cuore qualcosa deve fare che altrimenti muore, si muore, si muore, il cuore non può dormire, non può sparire, se va in pensione non è più cuore. Lo tiene a pian terreno, l'hai chiuso in un cassetto, l'hai congelato bene, ci hai messo un bel fiocchetto. Siamo sempre qui dal Radio Onda Rossa nella 24 ore dell'MFLA, sono le 3:30 e continuiamo ad ascoltare un po' di musica e ci piaceva anche farvi ascoltare questo pezzo che è di Paola Cortellesi, tratto dal suo spettacolo che è Gli ultimi saranno gli ultimi, ed è un monologo toccante e pungente che però parla del significato delle canzoni, e visto che noi in radio di musica ne mettiamo tanta e il significato delle canzoni è sempre interessante. Mi fai qualche cenno? No, vai avanti, mo risponde lei. È sempre interessante. Intanto trilletti. Sì, vedevamo accendersi qualcosa e qualcuna ci sta ascoltando, e quindi anche a lei dedichiamo questo monologo simpatico e divertente di Paola Cortellesi. E 5, 6, 7, 8 dun dun dun dun. Una rotonda su un mare, piano piano, tempo a tempo. Dun dun dun dun, il nostro disco suona, piano piano, tempo a tempo. Dun dun dun dun, vedo gli amici ballare, tempo a tempo. Dun dun dun dun, ma tu non sei qui con me, amore mio, dimmi che sei. Sì, poi va avanti. Il pezzo più bello è quando fa it's impossible di con lui, o se rompia di qualcuno. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Mamma mia, questo tempo, ma ti ho fatto cantare quando ha tutto. No, a me piace tanto cantare le canzoni, tantissimo, perché a me le canzoni mi fanno gioia, eh? Però anche riflessione, eh? È vero, perché sempre le canzoni raccontano di qualche storia, di amore, di amicizia, è vero, infatti le canzoni sono una cosa seria, infatti a tempo vanno cantate, noi non dici, perché non dici? A tempo vanno fatte, piano piano, tempo a tempo, è vero, perché sempre se ci fai caso, sempre nelle canzoni ci trovi sempre dentro una qualche verità, eh? Poi vabbè, ci sono quelle che sono proprio dei capolavori. Per esempio c'è questa che a me piace tantissimo, che è una poesia, secondo me, che fa così, fa. Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso. Questa è l'elefante e la farfalla, no? Che cosa ci parla questa canzone? Praticamente la storia di un amore impossibile, no? Perché ci sta lui che è innamorato di lei, che è

ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013. Siamo ancora qui, sono soltanto le 3:40, mentre la Levante ancora ci canta Alfonso. Noi intanto ci rilassiamo e in tranquillità traghettiamo ancora verso la mattina e vi facciamo ascoltare, per sentire un altro po' di parole, una poesia di Alda Merini, Donne del Sud. Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende lo stensorio in mano ad un misericordioso prete. De vos les nouvelles avec voracité. Leurs villes les ennuis, relance et venir des automates qui se répètent à l'infini. nous, le semi se guidant provoquer votre rage, votre colère. La réalité nous est présentée par les médias de façon déformée. Notre priorité, c'est la vérité. Il est notre devoir d'aller vérifier. On n'est pas de nos vos amis organisés, climatisés. L'ordre avance, pas de résistance. On va tous pas, on arrivera. Dopo Cristina Valloni, che speriamo vi abbia svegliato e fatto ballare come ci ha svegliato e fatto ballare a noi, anche se naturalmente voi a quest'ora magari starete dormendo, continuiamo le nostre letture, le nostre poesie che abbiamo scelto per voi per questo pezzo della Notte ci piace. E da Sangue sulle ginocchia, un libro di Anna Elena Pena, leggiamo una poesia per voi. Sì. Piuttosto che star soli andiamo con pazzi, con idioti ed ubriachi, con donne vuote o di dubbia morale. Mentiamo ai genitori, giuriamo invano, rischiamo la pelle e ci giochiamo i nostri sogni. Attraversiamo la strada a occhi chiusi con il primo che ci dà la mano. Piuttosto che star soli manteniamo una grande farsa che chiamiamo amore, così in maiuscolo, tirando fuori conigli morti da un cappello a cilindro, mischiando le nostre carte con l'inganno e facendo trucchi scarsi davanti allo specchio per non sbattere il grugno contro la realtà e allontanare la paura di rimanere soli. Perché per non esserlo, per non sembrare che lo siamo, facciamo la fame, sperperiamo denaro, sentiamo senza ascoltare, abbracciamo senza accogliere e ci trasformiamo in automi disperati, dimenticando quanto è bello sedersi ad aspettare le cose semplicemente succedano. L'odore di gelsomino delle notti d'estate e la scoperta in attesa di qualcosa di autentico che ci sorprenda alla sprovvista, privi di artifici, disadorni, disarmati e tranquilli, liberati di ciò che pesa e schiavi dell'evanescente, dell'etereo. Lasciarsi andare. Però piuttosto che star soli, anche solo per un momento, continuiamo a cercare e continuiamo a fingere. Trucchiamo quel che si vede e quello che anche no, per il timore che scoprano i nostri difetti e la fragilità ci nasconde dietro di essi. Ci incalzano l'abbandono, l'angoscia e la fretta, di modo che ci divora la notte e ci sorprende il giorno, quasi sempre nel luogo sbagliato, dove il silenzio scomodo e un dolore nel petto ci rimprovera un'altra volta e ancora tutte queste stronzate che facciamo le une e gli altri, adesso e sempre, piuttosto che star soli. Filled with despair, there's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Siamo ancora qui, sempre noi, ancora più sveglie, ci riprendiamo e continuiamo a leggere il nostro oroscopo, perché se non mi sbaglio ci manca ancora qualche segno, no? Allora, sicuramente ci manca Bilancia, che comunque stiamo passando per quelli che non c'hanno niente da fare domattina. Non so se quindi si vede sicuro. Non direi proprio quelli che non hanno nulla da fare domattina, ma quelle che traghettano la notte dell'MFLA. No, non lo mette in difficoltà invece, come sempre. No, sempre sappiamo cosa dire. In effetti, grazie delle cuffie qua. Intanto metterei questo sottofondo, così, giusto un po' per sentirlo mentre c'è. Sottofondami pure. Senti, eccoti qui sottofondata. Ringrazio. E il sottofondo. Tieni, ti passo un attimo. A che cosa eravamo arrivati? Al Capricorno? No. Se il Capricorno abbiamo letto. Scusate ragazze. Esatto, sta di Bilancia. È vero. Scusate, mi ero persa nella canzone e quindi avevo lasciato il Capricorno. Allora, torniamo al nostro oroscopo, che è Bilancia. Che succede? Vogliamo dire? Vediamo che succede. I primi giorni di marzo si prevedono ancora complicati, quindi resta un po' nella complicanza, capito? Però noi sappiamo che poi dal 5 si cambia registro. E quindi il registro è cambiato. Bene. Dopo mesi. Che ne sai? Non possiamo fare delle incursioni dicendo ciò che accadrà domenica. Già letto sotto, facile. Comunque, Venere, dopo mesi di lotte e opposizioni, si fa generosa e stimolante. E già là ti aiuta un pochino, capito? Eh sì, sistema un po' la cosa. Si stimola. Nel lavoro e nella sfera economica le cose cominciano a scorrere come si deve. In amore torna la voglia di comprendersi. Le coppie che hanno resistito, capito? hanno ancora molto da darsi e da darsi, da darsi, da darsi, da darsi, da darsi. E non ci domandiamo se hanno resistito piuttosto che star soli o hanno resistito. Scusami Marta, ma è la situazione. Sì, cioè, diciamo, io ho letto due cose, me la puoi mettere come ti pare, io te potrei rispondere con quella prima. Comunque vabbè, avete scelto la coppia, da darsi. Quelli arrivati alla frutta, devono solo pagare il conto e cambiare ristorante. Ci sta questa storia, insomma, un tamanna di a stronza, dice. Sempre perché la stronza dice le cose come stanno. Cioè, da dice a sto punto pagar conto. I cuori liberi vivono un gran momento. Raga, yuppie. Poi uno dice perché i cuori liberi, quelli vanno a pagare ristorante, quell'altri gli pia male che devono darsi e invece i cuori liberi vivono un gran momento. Poi uno dice uno è de parte. Poi faccio il riassuntino un attimo di story. Pensavo che sono stati molto romantici le nostre ascoltatrici della Bilancia, e anche se hanno pagato un po' di nervosismo e un po' di fibrillazione, questa agitazione strana che le ha colte, però sono state in grado di essere accomodanti. E allora che succede? Dall'alba, che ormai ci avviciniamo all'alba di venerdì 7, alla mattina di domenica 9, estro e simpatia. Anche se noi ci avviciniamo all'alba di sabato 8, quindi siamo proprio nel mezzo nel culmine, tra l'estro e la simpatia. Dell'estro e la simpatia. E invece dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10, umore nero e fisime. Ma sì. Vabbè, dai, ogni tanto ci sta pure. Sì, un po' rude, no? Perché no? Ecco. Bilancia. Bilancia. Davanti a me il lento passare di un secolo. Prospettive. Beh, aiutateci pure voi a capire quali segni mancano, perché noi ci siamo perse. Lo possiamo rendere ufficiale? Assolutamente sì. Anzi. E comunque vi diciamo pure che adesso sono portato all'indiano, quindi se adesso ci portate un dolcetto con un bel cappuccino, siete grandi. Noi vi aspettiamo. Per me ci manca lo scorpione. Vabbè, dai, è scorpione. Vado? Vai. Allora. Amiche dello scorpione. Sospiro. I primi giorni di marzo sono i più interessanti. Poi anche Venere dal 5 si mette di traverso. Spiace. Nel lavoro c'è caos. Qualcosa vi sfugge oltre i soldi. Chissà che sarà. Boh. Difficile l'intesa per chi si vive un rapporto. Le difficoltà e le responsabilità pesano e si riversano sulla coppia. E ritorni là, ritorni al discorso mio allora. E infatti ti aiuto io, perché single le storie che nascono ora sono fugaci o hanno bisogno di tempo per prendere il volo. Sappiatelo, è un avvertimento che suona anche un po' come una minaccia, detto da stronza. Poi c'è il solito riassuntino. E qui ci stanno delle grandi giornate, delle avventure che però i malumori e gli incastri non mancano mai. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderceli, no? Sempre per la teoria che non può essere mica una settimana tutta fantastica. Mica tutti sono dei pesci. Comunque, certo, volevo dire che questa cosa è... Un po' la ripetiamo. Va bene, sì. Sì. Però che succede? Che dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9 di buona parlantina. Yeah, qualche amica dello scorpione dovrà venire in radio, no? Per la 24 ore, è sempre all'apice della parlantina. Con quelli del cancro, certo. Bravissima, si lo incontrano, sapevo che l'associazione c'era. Uno due, capito? Abbiamo creato tutte reti, sì. Vabbè, e quindi chiudiamo lo scorpione dicendo che dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10 animo da chioccia e ritornano le coccole e la tenerezza. La tenerezza, comunque un po' ci stanno un po' di segni che si accoccolano. Un po' di segni si accoccolano.